All'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, ci fu questa parola da parte del Signore in questi termini. Così dice il Signore: mettiti nell'atrio della casa del Signore e annuncia a tutte le città di Giuda che vengono a prostrarsi nella casa del Signore tutte le parole che io ti avrò ordinato di dire a loro. Non omettere alcunché. Forse ti ascolteranno e ritorneranno dalla propria strada malvagia e mi pentirò della sventura che io sto meditando di recare a loro a causa della malvagità delle loro azioni. Dirai loro: così dice il Signore, se non mi darete ascolto, camminando nella mia legge che ho posto dinanzi a voi, ubbidendo alle parole dei miei servi, i profeti che io mando a voi con tempestività e sollecitudine, se non li ascolterete, allora renderò questa casa come Silo e renderò questa città una maledizione fra tutte le nazioni della terra. Quando i sacerdoti e i profeti e tutto il popolo ebbero ascoltato Geremia che proferiva queste parole nella casa del Signore, avvenne che, avendo terminato Geremia di dire quanto gli aveva ordinato il Signore di riferire a tutto il popolo, i sacerdoti e i profeti e tutto il popolo, lo arrestarono dicendo: devi morire. Perché profetizzi nel nome del Signore dicendo: come Silo sarà questa casa, e questa città sarà distrutta e senza abitanti? Tutto il popolo si radunò attorno a Geremia nella casa del Signore. Quando i principi di Giuda udirono queste parole, dalla casa del re ascesero alla casa del Signore e si sedettero all'ingresso della porta nuova della casa del Signore. Allora i sacerdoti e i profeti dissero ai principi e a tutto il popolo: sentenza di morte merita quest'uomo, perché ha profetizzato contro questa città, come voi avete sentito con i vostri orecchi. Geremia rispose a tutti i principi e a tutto il popolo così: il Signore mi ha inviato a profetizzare contro questa casa e contro questa città tutto ciò che avete ascoltato. Ma ora migliorate le vostre vie e le vostre azioni ed ascoltate la voce del Signore Dio vostro, e il Signore si pentirà della sventura che ha pronunciato contro di voi. Quanto a me, eccomi nelle vostre mani. Fate di me quel che è meglio agli occhi vostri e più giusto. Soltanto sappiate fermamente che se voi mi fate morire, un sangue innocente voi ponete sopra di voi stessi, sopra questa città e sopra i suoi abitanti, poiché veramente il Signore mi ha inviato contro di voi a proferire ai vostri orecchi tutte queste parole. Allora i principi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e ai profeti: non c'è per quest'uomo sentenza di morte, perché ha parlato a noi nel nome del Signore Dio nostro. Ora si erano alzati alcuni degli anziani del paese e dissero a tutta l'assemblea del popolo così: Michea il morastita stava profetizzando ai giorni di Ezechia, re di Giuda, e disse a tutto il popolo di Giuda: così dice il Signore degli eserciti, Sion come campo sarà arata, e Gerusalemme diverrà rovine, e il monte del Tempio un'altura boscosa. Lo fece forse condannare a morte Ezechia, re di Giuda, insieme a tutto Giuda? forse che non temette il Signore? E placò il volto del Signore? E il Signore si pentì della sventura che aveva preannunciato contro di loro? Noi, invece, stiamo facendo un male grande contro noi stessi. Ci fu ancora un uomo che profetizzava nel nome del Signore, Uria, figlio di Semaia, da Kiriat Yearim. Egli profetizzò contro questa città e contro questo paese perfettamente come Geremia. Il re Joachim ascoltò, insieme a tutti i suoi ufficiali e tutti i principi, le sue parole, e cercò di metterlo a morte. Ma Uria lo seppe ed ebbe timore. Quindi fuggì ed entrò in Egitto. Allora il re Joachim inviò degli uomini in Egitto, Elnatan, figlio di Acbor, e altri con lui. Costoro fecero uscire Uria dall'Egitto e lo ricondussero al re Joachim, che lo fece uccidere di spada e poi gettò il suo cadavere fra le tombe dei figli del popolo. Allora la mano di Achicam, figlio di Safan, fu a favore di Geremia, affinché non lo consegnassero in potere del popolo per farlo morire.